Storiacce di Raffaella Calandra. Non voglio vedere Palmira senza Tembio Dybala. Non voglio vedere Palmira senza Tembio Dybala Tchamin. Non voglio vedere Palmira senza l'Arch Triumph. Ogni giorno sono stato con loro. Fanno per uccidere la nostra storia, uccidere la nostra identità. Palmira non solo ritorna per i palmireni, ritorna per o per siriani, ritorna per tutto il mondo, perché Palmira è il tesoro del mondo per me. Quella la più bella notizia che l'ho sentito. Aspettiamo il tempo buono per ritornare. Sentite che differenza. È tornata la vita e l'energia nella voce di Mohamed Saleh ora che Palmira è stata liberata, ora che i primi sopralluoghi hanno confermato che le distruzioni dell'ISIS non hanno cancellato la magia della più importante città antica del Medio Oriente. È tornato il colore nelle parole di colui che è stato l'ultimo responsabile del sito archeologico siriano, collaboratore di Khaled el-Assad, l'archeologo giustiziato dal califfato, ora che di nuovo declina i verbi al futuro quando parla del suo paese. Paese abbandonato, come è stato per milioni di altri siriani, quando ormai era diventato impossibile restare. Palmira, la città dell'antica regina, diventa così il simbolo di un domani che torna possibile in Siria, nonostante l'ISIS, nonostante i raid che spezzano la tregua. Ancora un tappeto di mine in realtà circonda i meravigliosi templi, e questa non è l'unica insidia che tuttora minaccia Palmira e l'intero patrimonio archeologico siriano saccheggiato e sminuzzato sul mercato nero. Ma la liberazione della città è forse anche, per dirla col ministro del turismo siriano che sentiremo tra poco, l'inizio del declino dell'ISIS, e con più sicurezza in Siria diminuiranno anche le partenze dei profughi, un tema dunque con concrete ed immediate ricadute pure nella nostra vita. Da qui allora, dal perfetto colonnato di questi templi romani, parte la nuova puntata di Storiacce. Through all the visit and through all the image assessment. Attraverso le prime visite, le foto e le analisi, la maggior parte delle rovine antiche è in buona condizione, belle e non danneggiate. Più dell'80% di Palmira è sopravvissuto, e questo è il primo punto. Anche nei momenti peggiori, Muammar Abulkarim è rimasto in Siria a difendere la sua storia. Anche quando gli archeologi venivano uccisi, come è successo a Khaled el-Assad, anche quando hanno deciso di rischiare la vita per sottrarre quanti più reperti possibile alla furia distruttiva dei terroristi e ai loro scavi clandestini. È sempre rimasto a Damasco, Muammar Abulkarim, e ora da capo delle antichità siriane esulta nel trasmetterci la sua fotografia dell'antica città romana dopo la prima visita, dopo la liberazione e dopo la scoperta di un quadro generale migliore di quanto si temesse. Il paesaggio dentro Palmira in generale è abbastanza soddisfacente ed è molto bello immaginare ora quello che noi possiamo fare dopo la liberazione, perché ora ci possiamo concentrare su come e cosa possiamo restaurare, ricostruire quello che è stato distrutto 10 mesi fa. I miei colleghi, il mio staff, è già stato a Palmira per una prima ricognizione dei danni. Sono tornati a Damasco e ci hanno mostrato tutti i dati. Abbiamo analizzato tutti i buchi e le mancanze, ma ora bisogna liberare il sito dalle mine. Gli ingegneri dell'esercito stanno già cercando di bonificare l'area. E dopo tutti noi potremo andare all'interno del sito Palmira, ma gli ingegneri già ci sono stati. E ora noi lavoriamo per poter organizzare un viaggio a Palmira e capire come restare nel museo di Palmira. Eravamo tutti terrorizzati al pensiero di come avremmo visto Palmira dopo la liberazione. E invece la situazione è migliore di quanto temessimo. Per me è stata una bellissima sorpresa il fatto che i danni si siano fermati lo scorso ottobre, che il paesaggio è tuttora molto bello a Palmira. Noi abbiamo bisogno di mettere a punto progetti di restauro. Abbiamo bisogno che la comunità internazionale partecipi con noi, a cominciare dall'Italia, perché l'Italia è uno dei più importanti partner da oltre 20 anni. Qui credo che possiamo fare molto, soprattutto all'interno del museo e anche per questi edifici distrutti dall'ISIS. Adesso l'importante è che la comunità internazionale sia unita contro il terrorismo per difendere Palmira. Ma non è solo per i siriani, non è solo per Palmira, è per l'umanità. Palmira, it's not for the Syrian people just, it's for the humanity. La liberazione di Palmira dunque simbolo di una vittoria sul terrorismo. A lei che effetto ha fatto tornare nell'antica città? Exactly, madam, what I want to say. È simbolo della vittoria sul terrore. Se gli archeologi verranno qui da tutto il mondo, sarà la vittoria del mondo sull'ISIS. È un progetto di pace per la Siria, senza la politica. Dobbiamo essere insieme per la nostra storia e per il nostro patrimonio, e sarà anche il simbolo della cooperazione internazionale in difesa dei beni siriani, la difesa di beni storici in un altro paese come simbolo della vittoria contro il terrore. Potrebbe essere uno dei segnali più belli che potrebbe diffondersi in tutto il mondo, di come il mondo possa lavorare insieme per cause importanti al di là della politica. Solo come archeologi, storici, studiosi, in qualità semplicemente di amanti dell'antichità e per difendere la nostra società moderna contro questi nuovi barbari, selvaggi o ISIS. Modern society anti-barbari and savagery of the ISIS. Ora che avete un quadro più preciso, visto che siete tornati direttamente a Palmira, sa dirci se ritenete che quanto è andato distrutto possa essere ricostruito, ovviamente in modo filologicamente corretto, o restaurato? Se saranno confermate le nostre valutazioni, il 50% di questi templi potrà essere restaurato. E ricordiamo che è stata distrutta la cella dei templi, la parte interna, cioè, non gli interi edifici. Si è salvata l'entrata, abbiamo il podio, abbiamo parte del colonnato. E poi chiederemo alla comunità internazionale e tutti insieme discuteremo su cosa possiamo fare per il restauro del Tempio di Bel e di Bel Shamin. Ma dobbiamo anche rassegnarci al fatto che alcune cose sono andate perdute. Dobbiamo accettare questa realtà, che le cose non torneranno mai a come migliaia di turisti le hanno viste prima dell'ISIS. Ma noi cercheremo di fare il massimo e le migliori opere, e lo dico da direttore delle antichità siriane per questi due templi. Palmira è diventata un simbolo a vari livelli per tutto il mondo, ma sappiamo come il patrimonio archeologico e storico della Siria sia molto più ampio al di là dell'antica città. Com'è la situazione nel resto del paese? Avete una stima di quanto sia andato perduto negli scavi clandestini? Abbiamo già cominciato molti restauri in Siria. Abbiamo finito la fase 1, il restauro della fortezza del Crack dei Cavalieri, nella lista dei beni patrimonio dell'umanità. E molti lavori nella città di Homs e Malula. E a Palmira faremo lo stesso. Faremo un quadro e abbiamo bisogno di discutere con i nostri partner per il museo e per il restauro di questi edifici distrutti dall'ISIS. E abbiamo bisogno dell'ombrello UNESCO, perché Palmira è inserita tra i siti patrimonio UNESCO. Abbiamo bisogno di esperti, di predisporre tutto. Abbiamo bisogno di avere autorizzazione per i nostri progetti. Se la comunità internazionale può sostenerci per il restauro di questi siti danneggiati, sarà un grande bene, ovviamente. Abbiamo poi un altro problema, oltre a Palmira, che non sappiamo cosa sia successo con tantissime opere d'arte e con gli scavi clandestini fatti da ISIS e mafie locali. Abbiamo bisogno di ripulire Palmira dalle mine e dopo possiamo fare una valutazione dello stato delle tombe e degli arredi funerari. Naturalmente abbiamo bisogno dell'aiuto anche di tanti esperti provenienti dai vari paesi nostri partner, come Italia, Germania, Francia, Inghilterra, archeologi con cui abbiamo a lungo già lavorato. Se accetteranno di venire, saremo molto felici. Ringraziano tutti l'Italia, i siriani ora, soprattutto quando parlano del loro patrimonio archeologico portato alla luce, come è stato per la città di Ebla, grazie soprattutto all'opera di italiani, come la missione guidata dal professor Paolo Mattie della Sapienza. Vi starete chiedendo, ma perché in mezzo a drammi di queste dimensioni, quando milioni di siriani scappano dalla guerra, quando dall'laggiù, dalla Siria, tornano i foreign fighters, i combattenti che poi insanguinano le nostre città, quando raid uccidono centinaia di bambini, vi chiederete perché in mezzo a questo inferno diventa così importante lo stato dei templi romani, per quanto preziosi? Perché è la difesa della nostra storia, è semplice, è la difesa della cultura, è la difesa dell'identità di un popolo che i terroristi vogliono cancellare. La storia e l'identità dei siriani, nelle forme perfettamente armoniche di un arco di trionfo, o la libertà nell'Europa e nell'Occidente, rappresentato da aeroporti e metropolitane, o da ristoranti e teatri squassate dalle esplosioni dei kamikaze a Parigi o a Bruxelles. È per questo che allora la liberazione di Palmira può davvero rappresentare l'inizio del declino dell'ISIS, come dice a storiacce il ministro del turismo siriano, Beshehr Yazji. questo Bumblebee Day è una prima. Palmira era una delle destinazioni turistiche più importanti. Abbiamo Palmira, un nuovo ruolo nella storia. Questi barbari hanno fatto tanti danni, però l'esercito siriano con i suoi amici sono riusciti a liberare questa città. Noi aspettiamo da tutto il mondo di partecipare a restaurare questa città. Rappresenta il punto di declino di questi terroristi. Noi ringraziamo molto il popolo italiano come il governo italiano. Ministro, la popolazione siriana sta continuando a scappare dal paese? Giovani soprattutto scappavano di queste zone e andavano a cercare lavoro verso l'Europa. Scappavano anche tanti terroristi che hanno perso loro zone e allora hanno scappato per forza verso la Turchia e dalla Turchia sono andati verso l'Europa. Oggi il percentuale di quelli che vanno fuori è abbassato molto. Quando torna la sicurezza, i siriani che amano molto la loro terra tornano piano piano alla loro terra. Deve trasmettere un senso di grande frustrazione essere il ministro del turismo in un paese bellissimo in cui però sembra paradossale parlare ora di turismo, visto il terrorismo, viste le uccisioni, le distruzioni e le fughe in massa. Eppure la Siria ha ricominciato a pensare al futuro proprio dopo la liberazione di Palmira e questo ci riguarda molto da vicino, non solo perché come tutti speriamo torni presto la pace e speriamo che tutti noi possiamo molto presto tornare ad ammirare le meraviglie siriane, ma perché una maggiore stabilità in quel paese, in Siria, significa anche meno partenze di profughi e questo in un momento in cui sulle nostre coste sono riprese gli sbarchi è un dato significativo e da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta Storiacce. Terrorismo in Siria si è diffuso in diverse parti, però purtroppo questa è una mentalità che si estende, purtroppo adesso si estende piano piano, è facile estendere perché prima nel 2011 la Siria era uno dei paesi più sicuri e nessuno aspettava che la Siria può avere questi problemi. Allora dobbiamo tutti collaborare, assieme, collaborare con il governo siriano, l'esercito siriano che combatte il terrorismo oggi, combattere questa mentalità che si estende. La Siria è la culla della civiltà, la Siria è la culla della religione. Danneggiare la civiltà siriana vuol dire danneggiare tutta la civiltà europea, tutta la civiltà del mondo. Ora si è fatto avanti l'Ermitage di San Pietroburgo per il restauro di Palmira. Ora gli archeologi di tutto il mondo stanno discutendo su come riportare l'antica città siriana ai suoi splendori, senza perdere tempo, che potrebbe essere il nuovo terribile nemico del più importante sito archeologico siriano. Ora si discute anche di stampanti 3D per innalzare di nuovo pure quanto è stato distrutto. Ma per fortuna, come avete sentito, nella prima parte di Storiacce, direttamente dal capo delle antichità siriane, la situazione è migliore di quanto si temesse. Così i primi sopralluoghi dopo la liberazione fanno sperare a Beshar Yazji, ministro del turismo siriano, di poter riportare di nuovo il mondo in Siria per guardare da vicino le distruzioni e gli orrori dei terroristi insieme alle meraviglie della storia. Racconta di un paese in cui i ristoranti sono di nuovo aperti, il ministro di Assad. Racconta di una Siria in cui a Damasco si vive come a Roma, ci dice Yazji. Ma proprio mentre parla, Storiacce, i raid interrompono la tregua e uccidono 23 persone, compresi 4 bambini. Di sicuro però l'atmosfera di questi giorni in Siria è come l'aria della primavera, gravida di attese e di speranze dopo un lungo, terribile inverno, compresa la speranza che il popolo siriano possa presto fare il rientro nei suoi confini. Di sicuro le partenze sono diminuite, ci dice il ministro Beshar Yazji, e questo ci riguarda molto da vicino. Per quanto riguarda la fuga dei siriani, soprattutto giovani, questa è la causa di diversi motivi. Il primo motivo proprio era l'embargo o la difficoltà economica nelle zone proprio assediate sotto il dominio di terroristi. Allora i giovani soprattutto scappavano di queste zone non sicure e andavano a cercare lavoro fuori verso l'Europa. loro andavano verso via la Turchia. La Turchia andava, scappavano anche tanti terroristi, tanti gruppi, tanti ribelli che hanno perso loro zone e allora hanno scappato per forza verso la Turchia e dalla Turchia sono tanti di loro sono andati verso l'Europa. L'embargo economico in generale, purtroppo che questo è infilato sul popolo siriano, sui giovani che hanno perso, gran parte di loro hanno perso il lavoro. Oggi, tornando piano piano alle zone sicure, oggi il percentuale di quelle che vanno fuori è abbassato molto. Allora più sicurezza vuol dire meno andare fuori e più tornare in Siria. Un dato estremamente significativo questo per l'Europa, dopo mesi in piena emergenza siriane, quando il tema dell'accoglienza dei profughi scappati dalla guerra è stato a lungo la priorità delle nostre città e ha fatto traballare anche governi forti come quello di Angela Merkel in Germania. Se i siriani potrebbero ora partire di meno dal loro paese, anche se più di 2 milioni di persone restano in Turchia, proprio ora, col ritorno della primavera, sono ripresi gli sbarchi in Italia invece. Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, ma anche Messina, Reggio Calabria, Crotone, quasi 4.000 persone in 5 giorni, ma provenienti soprattutto dal centro dell'Africa, ci conferma Don Zerai Mussi, sacerdote etiope, diventato punto di riferimento per chiunque attraversi il canale di Sicilia. Durante la primavera e l'estate sempre aumenta il numero di persone che cercano di attraversare il canale di Sicilia. Questa situazione si aggrava anche dal momento che tutti chiudono i confini e l'unico accesso che rimane sarà la Libia, quindi sicuramente da qui all'estate vedremo un incremento del numero. Se la via greca, Turchia e Grecia chiusa, molti tenteranno di passare dalla Libia. Con tutti i rischi e con tutti i pericoli che purtroppo drammaticamente conosciamo, lei in questi giorni ha già ricevuto richieste di comunicazione da persone che erano in viaggio? Negli ultimi 3-4 giorni ho ricevuto diverse richieste di aiuto che ho segnalato alla Guardia Costiera italiana. C'è chi dice che quest'estate potrebbero esserci ancora più sbarchi che l'estate precedenti proprio per via delle difficoltà sulla rotta balcanica. Questo dipenderà molto dalle scelte che farà l'Unione Europea. Ormai da 15 anni continuiamo a chiedere all'Europa di aprire i corridoi umanitari, cioè di creare quei canali legali di accesso senza mettere in rischio la vita di queste persone, fino adesso non se ne è fatto nulla. E un segnale, eppure che è fattibile, l'hanno dato alcune organizzazioni come Sant'Egidio insieme alle chiese luterane che hanno organizzato questo programma di reinsediamento, per esempio dal Libano o dalla Giordania. Quindi se c'è la volontà politica è fattibile che ci siano delle persone ritenute bisognose di protezione possano essere trasferiti legalmente, però non si capisce l'Unione Europea perché non vuole farlo. Diminuiti quindi i siriani che bussano alle nostre porte, aumenta chi riprende la via del mare per arrivare da noi ed è per questo che il Viminale, attraverso il capo del Dipartimento responsabile dell'immigrazione, il prefetto Mario Morcone, non nasconde la sua preoccupazione. Al microfono di Valentina Furlanetto. Siamo preoccupati e stiamo guardando con attenzione agli sviluppi del gioco. Fra gli ultimi arrivi ci sono anche 2 imbarcazioni salpate dall'Egitto. È una tendenza preoccupante? Qualche barca dall'Egitto è partita e è arrivata a Crotone. È ancora presto per dire che questa è una tendenza. Capiremo nei prossimi giorni se è stato un fatto episodico o se diventa invece una nuova rotta, ma io penso, spero di no. Chiusa un'emergenza dunque, se ne potrebbe presto aprire un'altra e la prossima potrebbe essere una nuova estate di sbarchi, di corse in mare per soccorrere barconi in difficoltà e di sforzi per accogliere altre popolazioni in fuga o dalla guerra o dalla miseria. Scenario quest'ultimo che apre questioni diverse e pone altre difficoltà politiche. Ma vogliamo chiudere questa puntata di Storiacce pensando positivo e ritornando alla liberazione di Palmira in Siria, che possa rappresentare davvero l'inizio del declino dell'ISIS, come abbiamo già sentito nella prima parte. E come avvertiamo nell'entusiasmo con cui Mohamed Saleh, ex capo del sito archeologico siriano, ringrazia ora soprattutto l'Italia, che in Siria ha scavato nelle missioni archeologiche più importanti e che ha aperto le braccia nei confronti dei profughi. finora non si può entrare al sito archeologico perché l'esercizio siriano pulire le bombe sotterranee, aspettiamo per il tempo buono per sapere tutto, ma per sicuro sapete che il tempio di Bel Sorol Cella, il tempio di Bel, tempio di Baal Shamil distrutto, tanti tempi, torre tembi, sotterranee tembi sono distrutti, il museo di Palmira, tanti alberghi, case di cittadini, ce ne sono, ma meno male di ritornare a Palmira. Ecco, Mohamed Saleh, qual è il suo sogno? Quello di rivedere i turisti a Palmira, lei che per tanti anni si è occupato proprio dell'aspetto turistico di Palmira. Speriamo. Adesso vogliamo la pace per tutto il mondo, per la Siria, per Palmira. Io voglio dire qualcosa importante. Io voglio graziare Italia come popolo, Italia come governo, tutti italiani, perché Italia come popolo e governo hanno fatto una cosa grande per la Siria e particolarmente per Palmira. Grazie mille popolo di Italia, grazie mille Italia. Per che cosa? Per l'accoglienza soprattutto nei confronti dei profughi? Per tutto che hanno fatto per Siria, per tutto. Grazie Italia. Il Mediterraneo da sempre, come sappiamo, è mare di profughi. È il mare attraversato da quelle civiltà che a Palmira costruirono quelle meraviglie finite nel mirino del califfato. Palmira per questo ha un posto speciale pure nella storia del mito. Linea allora alle mitiche storiacce e a Giorgio Iaranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. L'immagine odierna di Palmira, persa, devastata e riconquistata, si trascina dietro una scia di altre immagini che affondano lontano nel tempo. Anno 273 d.C. L'imperatore Aureliano distrugge Palmira, dopo aver sconfitto la sua regina, Zenobia, che si era ribellata a Roma. Zenobia sarà esibita come preda di guerra nel corteo trionfale per le strade dell'urbe e poi morirà prigioniera a Tivoli. 2000 anni dopo, altre distruzioni, altri saccheggi. Nella follia con cui l'ISIS si è accanita su Palmira c'era del metodo, forse inconsapevole. Distrutti i templi di Bel e di Baal Shamin, divinità solari simili a Giove, simboli di quel sincretismo, di quel dialogo tra le religioni che caratterizzava un tempo queste terre del Medio Oriente. Distrutto l'arco di trionfo costruito da Settimio Severo, imperatore romano nato in Libia. Gli uomini dell'ISIS hanno lasciato invece intatto il teatro, lo hanno usato come scena macabra per i loro sgozzamenti. Ancora una volta il rullo della storia si riavvolge. Anno 53 a.C. il triumviro Crasso viene sconfitto dai parti sulle rive dell'Eufrate. La sua testa viene tagliata e portata come trofeo al re dei parti, proprio nel momento in cui a corte si mettono in scena le baccanti di Euripide, una tragedia che ha come scena clou proprio l'esibizione di una testa mozzata. Un attore prende in mano la testa di Crasso e la mostra al re, recitando festoso i versi di Euripide. La morte è trasformata in teatro, le teste mozzate come macabro spettacolo di propaganda, oggi come 2000 anni fa. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.